Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Gli open data, di cui abbiamo già parlato altre volte, sono grandi basi di dati pubbliche, liberamente fruibili attraverso la rete, tramite le quali la pubblica amministrazione dovrebbe rendere trasparenti le proprie procedure e aumentare la disponibilità di informazione presso i cittadini. La tipologia di dati di cui parliamo è amplissima, si va dai beni culturali presenti su un territorio alla localizzazione degli esercizi commerciali, per non parlare di stipendi, forniture e appalti appunto della PA. Dalla visibilità di questi dati ci si aspetta prima di tutto di ottenere trasparenza nella pubblica amministrazione, e su questo ci sono dei passi avanti oggettivamente. Basta pensare a come è stato facile per i giornalisti pochi giorni fa scoprire i premi ingiustificati erogati ad alcuni dirigenti del comune di Genova per la messa in sicurezza del territorio, che evidentemente non è avvenuta. Tuttavia, dalla diffusione degli open data ci si aspettava anche un miglioramento nella qualità dell'erogazione di molti servizi e strumenti innovativi per le attività di business, addirittura business completamente nuovi. Di questo oggi si vede pochissimo. Perché? Lo abbiamo chiesto a Marin Jansen, professore dell'Università di Delft e tra i maggiori esperti dell'argomento in Europa. Sentite. Professor Jansen, ci sono delle barriere che impediscono agli open data di dispiegare, diciamo così, i propri effetti in modo completo? È pieno zeppo di barriere. Ci sono senz'altro delle sfide tecnologiche, ma soprattutto le barriere sono di tipo organizzativo. Abbiamo la necessità di gestire la frammentazione delle informazioni, la proprietà dei database, la tipologia di dati che abbiamo a disposizione. Poi c'è la sfida della partecipazione. Bisogna promuovere l'uso di questi dati e spesso anche l'immissione di nuovi dati da parte degli utenti. Quindi bisogna capire a chi questi dati possono servire e a che cosa. E infine c'è l'aspetto qualitativo. Sono dati aggiornati? Sono completi? Sono realmente fruibili da chi ci aspettiamo che li usi? Anche la normativa è una barriera. Pensiamo alla questione della privacy o della proprietà dei dati. Sulla base di queste considerazioni, lei insieme a due colleghi dell'Università di Aegean in Grecia è arrivato a elaborare l'idea di 5 miti sull'open data. Iniziamo dal primo. Il primo mito è: la pubblicazione dei dati porterà automaticamente a dei benefici. In realtà l'utilità degli open data dipende dal fatto che qualcuno li usi. Quindi bisogna prevedere delle attività di promozione, di creare incentivi alla partecipazione dei cittadini, eccetera. Inoltre i dati non possono quasi mai essere pubblicati una volta per tutte, ma hanno bisogno di essere mantenuti e aggiornati, e questo ha anche un certo costo. Secondo mito. Il secondo mito è: tutte le informazioni devono essere pubblicate. Questo naturalmente si scontra con la tutela della privacy. Per esempio, non si possono pubblicare dettagli sulle singole persone, come la loro attività lavorativa o se hanno la fedina penale sporca. Altro esempio. Esiste la possibilità di dotare le forze dell'ordine di un dispositivo capace di seguirne gli spostamenti sul territorio. Questo ti consentirebbe di sapere se in quel momento la tua zona, quella dove vivi, è pattugliata da agenti di polizia. Informazioni che un cittadino potrebbe desiderare di conoscere per la propria sicurezza. Ma anche il criminale sarebbe ben felice di avere queste informazioni, proprio per stare al largo dalle pattuglie. Insomma, di quanta trasparenza abbiamo davvero bisogno? E arriviamo al terzo mito, ovvero è solo questione di pubblicare i dati. Qui il tema è la qualità dell'informazione offerta. È esattamente così. Il decisore politico che decide di aprire un database deve preoccuparsi come prima cosa che i dati siano corretti. È il minimo che, come cittadini, ci si aspetta dalle istituzioni. Anche perché dati sbagliati portano facilmente a conclusioni sbagliate e a errori grossolani. Qualche tempo fa una ricerca era arrivata alla conclusione che in Norvegia gran parte delle donne incinte vivevano lungo la costa. Per forza, quasi tutti i norvegesi vivono lungo la costa. Chiarissimo, allora andiamo al quarto mito. Ogni cittadino potrà usare i dati pubblicati. Recita così, ci spiega? Sì. Naturalmente le cose sono molto più complicate. A volte non basterebbe un dottorato in statistica per riuscire a processare i dati ricavandone qualcosa di utile. Non so quanti italiani abbiano competenze di statistica, ma in Olanda sono abbastanza rare. Spesso mancano anche strumenti per consentire a un cittadino di dare un feedback sui dati e indicare se sono stati utili, per che cosa e come possono essere migliorati. Ecco, ultimo e quinto mito recita: gli open data si traducono automaticamente in open government. Falso, a causa di molte delle barriere che abbiamo già detto. ma soprattutto perché per tradurre gli open data in open government ci vuole un forte impegno politico e molta consapevolezza. Noi eleggiamo dei politici sulla base dei nostri orientamenti e poi sono loro a tracciare la rotta. Torniamo in studio, ma solo per darci appuntamento a domani con la seconda parte dell'intervista a Marin Jansen. Buona serata.